L'ubriacone e la sua donna, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Per rimedio o vergogna che gli dai, l'uom dal suo lato debole sempre cascar vedrai, come dimostra l'opportuno esempio che alle parole mie non manca mai. Un discepolo di Bacco, per il vizio di bere, era condotto in precipizio. Salute, ingegno e soldi ed allegria quell'uomo aveva distrutto, come fanno color che a mezza via hanno già speso tutto. Un giorno, che ben molle di decotto tornava a casa traballando e cotto, la sua donna lo prese e lo serrò in fronte a un bugigattolo, dove egli in braccio al vin si addormentò. Quando si risvegliò, vide, o spettacolo, intorno al letto luccicar le fiaccole, e sopra il letto un gran lenzuolo funebre, e accanto i 100 attrezzi della morte, ond'io non dico se si spaventò. Camuffata alla foggia d'una furia, ecco s'avanza la gentil consorte, adagio, come vanno le fantasime, a servirgli una broda nera e sordida. Ah, proprio egli credé d'esser cascato in casa del diavolo. Oimè, gridava, oimè, sogno morto davver, chi sei, fantasima? Io son la cuciniera dell'inferno e porto da mangiare a quei che stanno in questo loco eterno. E il buon marito, senza giudicare, grazie al vin, se sian cose false o vere, dimmi, esclama, e non porti anche da bere? Fine della favola L'ubriacone e la sua donna. Questa è una registrazione di dominio pubblico.